a farfalla e larva, come mai si verificano processi che ognuno giudicherebbe irreversibili? Quindi le battaglie, qua, per quanto riguarda il marxismo, beh, la cosa più interessante forse il suo rapporto, la sua dialettica veramente vivace con Sanguinetti. Ricordo che quando facevamo l'intervista uscì su Liberazione, Sanguinetti lo tirava in ballo e gli portai, lui era molto anziano ormai, aveva appunto 85 anni, gli portai il foglio del giornale, leggemmo insieme e lui mi disse: ah no, non ci casco più, con Sanguinetti sono tanti anni che ho deciso che non ci casco assolutamente più, alle sue provocazioni non ci casco. Non gli perdonava in realtà delle, diciamo, prese di posizione, diciamo, in favore di certe posizioni proprio ideologiche marxiste, non gliele perdonava. Dice: gli riconosco grandi meriti artistici anche, ma gli rimprovero gli equivoci di cui si è fatto furioso portabandiera in alcuni momenti. Quindi la dialettica era spietata, diciamo, da questo punto di vista. Quindi una posizione marginale, non ha mai aderito, non ha mai dato manifesta, diciamo, prova di adesione alla religione, anzi si dichiarava ateo, però poi, diciamo, l'ateismo integrale, diciamo, forse è un'altra cosa. Io volevo concludere con un'immagine di Zanzotto poeta. Sì, ma potremmo concludere con di Zanzotto poeta, non so, ora leggere una poesia, non saprei, però potremmo evocare bene quello che lui dice della poesia, una poesia ostinata a sperare. Quindi questo rapporto continuo tra questa operazione cenciosa, che lui dice, che è quella di fare il poeta. Condizione e operazione cenciosa, e in realtà invece la storia contemporanea. La poesia scrive questo è uno scritto che si intitola I miei 85 anni. La poesia è profondamente immersa nella storia, anche quando non ne parla direttamente. Nell'incontro con la storia, essa fortifica la sua tendenza a un'autonomia totale. Ma la poesia è anche la testimonianza di un'ostinazione a sperare, a riaffermare le ragioni della speranza, perfino quando sembra che sia stata definitivamente bandita. Ecco, direi che questa forse è la cosa importante. Il poeta era ormai anziano, continuava, mi diceva quando ci sentivamo, quando ci vedevamo: no, sto continuando a rimettere a posto, sai, ho tante carte, anche che non sono mai state edite, sto riordinando tutte le carte. Questa era bellissima. Questa io l'ho sentito l'ultima volta in occasione dei 90 anni. Era assediato, diciamo, era completamente assediato da richieste di tutti i generi. L'ho sentito per gli auguri. Andrea, che cosa fai? Continuo, sai, a riguardare, rimettere a posto le carte. Stava tentando di riordinare il suo archivio, aiutato, diciamo, stava rimettendo a posto un grande archivio che aveva, di cose sparse e non mai pubblicate anche. Beh, ci rimane il Meridiano Mondadori, ecco, questa è una cosa importante, insomma, chi volesse trovare Zanzotto, diciamo, la silloge maggiore delle opere di Zanzotto è sicuramente il grande Meridiano Mondadori. La voce dei poeti, di Leone Piccioni. Un programma a cura di Luigi Fantoni e Sergio Mignussi. Andrea Zanzotto. La schedina biografica di Andrea Zanzotto è molto scarna. Zanzotto nasce a Pieve di Soligo, in provincia di Treviso, nel 1921 e, a parte la laurea in lettere conseguita a Padova, alcuni viaggi all'estero e successivo insegnamento nella scuola media, la sua storia privata sta tutta racchiusa nei titoli delle sue raccolte di poesia. Nel 1951 pubblica Dietro il paesaggio, che gli vale il premio San Babila e l'attenzione di Ungaretti, Montale e Betocchi. 3 anni dopo, Elegia ed altri versi, un libro seguito nel 57 da Vocativo e nel 62 da 9 ecloghe. Gli ultimi titoli di Andrea Zanzotto sono La Beltà, 1968, Pasque, 1973 e infine Filò. Poesie che, scritte in un veneto comune per il Casanova di Fellini, rinnovano, con taglio diverso e quasi a luce capovolta, l'antica tradizione della poesia in dialetto. L'ultimo volume di versi di Andrea Zanzotto del 78, Il Galateo in Bosco, ha una prefazione di Gianfranco Contini. Comincia così questa prefazione. Quando uscì La Beltà, una raccolta di Zanzotto del 68, Eugenio Montale ne trovò l'autore indubbiamente aumentato rispetto al posto di rilievo già tenuto in quella, soggiungeva ironicamente Montale, che viene definita generazione di mezzo. Non so quando cominci e quando stia per finire. Ciò che tradotto in chiaro e aggiunta tutta la grossezza inerente a siffatte graduatorie significa, dice Contini, il più importante poeta italiano dopo Montale. E non sembra questa certo una dichiarazione da poco. Da Dietro il paesaggio. Nel mio paese leggeri ormai sono i sogni. Da tutti amato, con essi io sto nel mio paese. Mi sento goloso di zucchero. Al di là della piazza e della salvia rossa si ripara la pioggia, si sciolgono i rumori ed il ridevole cordoglio per cui temesti con tanta fantasia questo errore del giorno e il suo nero d'innocuo serpente. Del mio ritorno scintillano i vetri ed i pomi di casa mia. Le colline sono per prime al traguardo madido dei cieli. Tutta l'acqua d'oro è nel secchio, tutta la sabbia nel cortile, e fanno rime con le colline. Di porta in porta si grida all'amore nella dolce devastazione e il sole limpido sta chino su un'altra pagina del vento. L'acqua di Dolle ora viene a consolarmi con una lunga visita. L'acqua di Dolle che portò 10 colline al paese sfuggì tra le api e i lor castelli di acume, toccò le forme sensitive di un'isola di pura sabbia. Ora viene quest'acqua che io sospiro perché traspare dalle tue membra gemelle, perché a lungo indugiò nello scrigno d'ombra dove il fico s'affaccia guardiano e il sole non fa più musco né felce, dove sono già aperte le scene da festa del cielo. Acqua ignara della creta che già fuoresce dai suoi viluppi, fiera del rosso momentaneo dei fiori celebrati da quest'ora. Tu vai dovunque lambendo e tentando le più ritrose solitudini. Lasciatemi la mia, per la mia lampadina di chiocciola, per l'orto di che il nano è mezzadro. Lei, dal fittissimo alfabeto, Lei che ha i messaggi di nobili invasioni degli astri che ritornano dalle Alpi, ormai pingui d'argento. Lei che va promettendo una notte fresca come un domani. Da Elegia e altri versi. Partenza per il Vo. Nuovi i tuoni, nuovo l'emigrante, e non mi so a decidere a partire. Per voi alberi, zolle e declivi, per voi mie piccole nozioni. Là germina la selva di molti uccelli. La pioggia, paese ignaro, mi sta di fronte. La resurrezione dirada le nevi di marzo. È la stanza alitata dalla calce. Ah, più volte l'aurora in sé confuse e spense, col sopore del domani le partenze tentate. Ha una campanella ogni sera il cimitero, con lei le mie sorelle m'accarezzano. Riposo potrò chiamarti, cielo, e vento te piangere con corde di pendici e di liane verso il freddo montello, parallele ombre e certezze della mia giornata? Giace il fardello, tu sei già remota nel marzo che ti invola oltre le siepi, ed il sole non è più che la viola lacrimosa che tace nel bicchiere. La carriera di Zanzotto è una carriera estremamente inquietante e importante per gli anni che si vivono. Questi anni in cui ci si domanda se la poesia, o perlomeno un certo tipo di poesia, sia morta o stia per morire, e se alla data di morte debba sopraggiungere il silenzio o debba sopraggiungere una diversa, completamente diversa stagione di poesia. Zanzotto s'affaccia con una grande scienza e coscienza e ispirazione sugli orli di questo abisso. Così come un pittore come Alberto Burri s'affaccia all'abisso della eventuale morte della pittura con la sua forza poetica. Non sarà morte, perché se fosse morte della poesia sarebbe morte della vita di ognuno e della vita di ogni uomo. Sarà una nuova rinascita, una nuova stagione poetica, e più che mai si scoprirà quanto Zanzotto possa essere stato punto di partenza di questa diversa e nuova sorte di poesia. Colloquio. Epigrafe. Ora il sereno è ritornato, le campane suonano per il vespero ed io li ascolto con grande dolcezza. Gli uccelli cantano festosi nel cielo perché tra poco è primavera, i prati metteranno il suo manto verde ed io come un sole appasito guardo tutte queste meraviglie. Scritto su un muro in campagna. Per il deluso autunno, per gli scolorenti boschi vado apparendo, per la calma profusa, lungi dal lavoro e dal sudato male. Teneramente sento la dahlia e il crisantemo, fruttificanti ovunque sulle spalle del muschio, sul palpito sommerso d'acque deboli e dolci. Improbabile esistere, di ora in ora allinea me le siepi all'ultimo tremore della diletta luna. Vocali foglie emana l'intimo lume della valle. E tu, in un marzo perpetuo, le campane dei vesperi, la meraviglia delle gemme e dei selvosi uccelli e del languore, nel ripido muro, nella strofe scalfita, ansimando m'accenni. Nel muro aperto da piogge e da vermi, il fortunato marzo mi spieghi tu con umili, lontanissimi errori. A me, nel vivo d'ottobre, altrimenti annientato, ad altri affanni attento. Sola sarai, calce sfinita e segno, sola sarai finché duri il letargo o secciti la vita. Io come un fiore appassito guardo tutte queste meraviglie. È marzo quasi verde, quasi meriggio acceso di domenica, marzo senza misteri, inebettì nel muro. Da 9 ecloghe. Nautica celeste, vorrei renderti visita nei tuoi regni longinqui, o tu che sempre fida ritorni alla mia stanza dai cieli, luna, e siccome io sai splendere unicamente dell'altrui speranza. Per la finestra nuova. Brilla la finestra del verde lungamente, lungamente composto, sogno a sogno. Orti o prati non so, ma quanta brina prima ch'io mi convinca, quanta neve. Verde del grano che alzi il capo e irridi tra l'incerto oro e il vuoto. Tu, mia finestra, e tu, cielo, che porti a me tra placidi astri gli squillanti satelliti che il gioco umano ha lanciati. Con lampi di fantascienza, a vagheggiare in orbite leggere i colli, e li vede a piè fermo il bue sul campo arato, e la vite e la luna. O mia finestra, purezza inestinguibile, per farti spesi tutto ciò che avevo. Ora, non lieto, in povertà completa, ancora tutti i tuoi doni non gusto, ma tra poco tutto mi darai quel che anelavo. Così siamo. Dicevano a Padova, anch'io, gli amici, l'ho conosciuto. E c'era il romorio d'un'acqua sporca prossima e d'una sporca fabbrica, stupende nel silenzio, perché era notte. Anch'io l'ho conosciuto. Vitalmente ho pensato a te che ora non sei né soggetto né oggetto, né lingua usuale né gergo, né quiete né movimento, neppure il né che negava e che per quanto s'affondino gli occhi miei dentro la sua cruna, mai ti nega abbastanza. E così sia, ma io credo con altrettanta forza in tutto il mio nulla. Perciò non ti ho perduto. Oh, più ti perdo e più ti perdi, più mi sei simile, più mi avvicini. Le prime raccolte poetiche di Zanzotto sono più facilmente accessibili, godibili per il lettore. Direi che ci sono in quelle prime elegantissime, già acute poesie di Zanzotto versi che si possono ricordare, che si possono ripetere, che ti entrano nella testa. Dopo l'esperienza fatta nelle raccolte successive e particolarmente in quella intitolata Pasque, fino a Galateo in bosco, è inutile nascondere che la poesia di Zanzotto diventa una poesia difficile. Non è una poesia di quieto e di facile accoglimento. La sua sperimentazione di carattere metrico, la sua sperimentazione sul linguaggio, mettendo insieme il dialetto alla lingua e riproponendo modi di dire e modi di parlare poetico del passato, fanno del suo linguaggio una specie di impasto quanto mai vivo, quanto mai vulcanico, entro il quale alle volte non è tanto facile arrivare a colpo alla comprensione precisa del significato letterale della parola. Io posso ricordare che quando mi presentavo un po' disperato a Ungaretti con delle pagine di Mallarmé che non avevo riuscito a capire, Ungaretti mi consolava dicendo «Ma ti piacciono?» Rispondevo di sì. Mi diceva «Ma se ti piacciono, allora perché ti preoccupi?» Se non le capisci letteralmente. La poesia non deve essere capita letteralmente. Dopo, in un secondo momento, ci si può arrivare. Ma lì per lì la vera grande poesia ti conquista per emozione. È l'esperienza che, quando non capisco, Io provo di fronte a Zanzotto, perché questa emozione subito me la comunica. E se non capisco, sono sicuro che capirò. Da la beltà. Oltranza, oltraggio. Salti, saltabecchi, friggendo, puro, pura. Nel vuoto, spinto, utre. Ti fai più in là, intangibile, tutto sommato, tutto, sei più in là. Ti vedo nel fondo della mia sera chiusa scura. Ti identifico tra i non, i sic, i saic. Ti disidentifico, solo no, solo sì, solo, piena di punte, immite, frigida. Ti fai più in là. E sprofondi e strafai in te, sempre più in te. Fatti il campo, decidi verso, nel tuo sprofondi. Brilli feroce e inconsutile non nulla. L'esplodente, l'eclatante, e non si sente nulla. Non si sente no. Sei saltata più in là, ricca, saltabeccante, là, l'oltraggio. Le profezie di Nino. Cosa mi fai scrivere, Nino? E non sappiamo se oggi tutto questo possa ottenere il permesso per un benché minimo senso. Nino, la più bella profezia non può mettere boccio che nei clinami di Dolle, dove tu, duca per diritto divino e per universa investitura, frughi gli arcani del tempo e della natura e, più conta, dai cieli stessi derivi il tuo vino, che le tue vigne con lo stellato soltanto confinano e col folto degli stellanti fagiani. Tu qui le tempeste e le nevi prevedi del domani, qui il percento di latte e di frumento, qui miseria o signoria. Ma sempre l'onda delle mele depone il suo meglio nei tuoi cortili. Quadri fogliati foraggi ti gravano i fienili e le tue uve, i pampani e i tralci non c'è luce che in vita li vinca, né vento né umore di terra. Via di qui la sofisticazione, lo stento. E come dall'estro tuo si disserra il raccolto più atteso, più pagato di tutta la contrada, quando su per le nude coste mattutine cui già dicembre pruinoso prude, ude, ridondanze su strati, su specchi, su inesistenze. Sali, pedalando, verso il feudo stillante genio e mirabilità. Tu, tra i 70 e gli 80 anni pedalando, quasi volage, profetizzi che nelle tue cantine presto ci troveremo in compagnia che summit, sceltissima, e con 100 e 100 ombre conosceremo sempre più profonde le profondità del tuo valore, tradizionista a sera, all'alba novatore. Questo è lo zenith d'ogni tua profezia. Da Pasque. Per lumina, per limina. E quanto mi insegnavate? Tutto è convinto, spinto a dare su un'alba, come di un altro fatto d'alba. Tutto è coinvolto, precipite a darsi, in filiazioni di napalm d'alba. Tutto è eroso da un fuoco sottile, fragile, freddo, il tepore. Tutto è impuntato in cristallo, fratto in fuoco, è covato e incavato a un fuoco. Pruriti aurei di seccume, notturne e tagliole di luna astrali, seccumi ragni nel sottile del fuoco, fuoco, nell'esile del fuoco, esile, nel frivolo, nel freschissimo del fuoco, il tepore. Ma è per quanti e quali equilibri, per quale concilio di lumi equilibri, dell'inavvertito equilibri ragni, rapidità sino alla fine è spazzato via, tutto da spazzare, da incelestire in odori e via. In che pause, oh no, nemmeno effrazioni, nemmeno. Vado di soglia in soglia, attraversato o risaputo, e frangendo e violando, insegnami, deliberatamente, perdutamente, come se frangessi allievi e templati, e frangessi aveti a vie, a circoli. Circoli, aree templifiche in boccio. Nell'ultima raccolta, le prove che dà di esperienza, di vita e di consumata penetrazione nella cronaca e in qualunque tempo della cultura e dell'esistenza è veramente straordinaria, prestigiosa, formidabile. Basti vedere la riproposta del sonetto petrarchesco, così come ce la ridà in una musicalità nuova ma estremamente ligia, fedele a quello che è il canone di partenza dal quale si muove. Da il Galateo in bosco. E mi addentro ora. E mi addentro ora. Mi tuffo nel tuo oro. Luna, mio unico capolavoro. Bosco di te sola, luna fiorito. Nera orda d'oro. Bosco capolavoro. Pupilla pronta in vetrina. E sforzo pronto, ma la guardia smonta e di orizzonte cade in orizzonte, in vetrino. Fiore di cui tutto infioro, inezia che tramonta, inezia unico capolavoro. Per la scelta di letture di Zanzotto mi soffermerei su quella intitolata Al mondo, dalla raccolta La beltà, perché mi sembra una di quelle poesie che non si possono collocare tra l'inizio, diciamo così, di un pittore figurativo che diventerà poi astratto, e non si possono neanche collocare nell'ultima stagione in cui Zanzotto è partito verso le nuove scoperte, verso le nuove profezie e le nuove anticipazioni. Però è certo uno di quei punti di incontro nei quali l'inizio comincia a modificarsi verso la ricerca e l'andamento del nuovo linguaggio, del nuovo segno, del nuovo sistema stilistico verso il quale Zanzotto si muoverà. Ed è appunto una lettura importante sulla quale è giusto che l'ascoltatore insieme a noi torni a meditare. Al mondo. Mondo, sì, è buono. Esisti buonamente. Fa che, cerca di, tendi a, dimmi tutto. Ed ecco che io ribaltavo, eludevo, e ogni inclusione era fattiva non meno che ogni esclusione. Su, bravo, esisti. Non accartocciarti in te stesso, in me stesso. Io pensavo che il mondo così concepito, con questo super cadere, super morire, il mondo così fatturato, fosse soltanto un io male sbozzolato, fossi io indigesto, male fantasticante, male fantasticato, mal pagato. Non tu, bello, non tu, santo e santificato, un po' più in là, da lato, da lato. Fa, di, ex, de, ob, eccetera, sistere. E oltre tutte le preposizioni note e ignote, abbi qualche chance, fa buonamente un po', il congegno abbia gioco. Su bello, su, su Münchhausen. Bisogna dire che questo secolo ha dato, attraverso la poesia italiana, una grande stagione poetica, che solamente la difficoltà di traduzione, purtroppo, della nostra lingua nelle altre lingue impedisce a questa schiera di poeti di presentarsi nel mondo come una delle più incredibili e felici punti di ritrovamento di una nuova poesia per questo secolo. La lingua italiana, lo sapete, è intraducibile. Leopardi, Petrarca, come si leggono tradotti? E così tanti dei poeti che abbiamo presentato. ma appunto c'è la gioia di chi segue, di chi è testimone, di chi studia e di chi legge, di poter dire che dal 1900, parto dalla data iniziale della poesia di Saba, a quel 1916 che segna il porto sepolto ungarettiano, a quel 1925 che segna l'uscita degli Ossi di Seppia di Montale, fino agli anni ultimi della poesia di Zanzotto, la poesia inventiva, lirica, italiana, è tra le più importanti che si possono sottoporre al giudizio del lettore e del critico. Si parla tanto di premi Nobel per quello che Montale ha meritato, per quello che Quasimodo ha avuto, per quello che Ungaretti e Saba non hanno ingiustamente avuto, ma anche tra i poeti d'oggi, Luzzi, Sereni, Zanzotto, ma quanti Nobel, se fossero dati giustamente, dovrebbero toccare alla nostra poesia.